già. Chi è che chiamo? Avanti? Aspetta, fa capire qua. Avanti, chi è che chiama Antonio? Capo, è mezzo al QRM, ti ascolto. Chi sei che non ho capito? Buonasera a lei, buonasera a lei. In che zona sei? Perché sei un bel basso qua. Non ho capito. Aspetta, metto l'orecchio. Chi è? Ho un bel basso mi sta arrivando, però adesso un cupiduccia. Guarda se senti a me, amico, lo so chi sei, non più nulla da questa parte, avanti. Ho capito che era la dentiera. Aspetta, io sì, sei Santiago 3, ma la radio è bassa. Ho sentito buonasera, buonasera anche a te, non so chi sei, se sei Tino, mi sembri un Tino... Tino... Cuscolo, va. Troppo correre, ti ascolto, ma non capisco cosa dici, ti ascolto, qualche volta ti ascolto, sento le parole qualche volta, però non si capisce perché sei di quello QRM, se ne saltavo di tre, il QRM è più alto. Capo, ho capito che sei l'argentiera, chi sei Tino? Ah, bravo, sì, adesso sei arrivato Santiago qua, come ti arrivo io all'argentiera? Quanto? C'è questo qua a me. Franco California. Ehi, Santiago 3, sì, adesso però sei chiaro perché non c'è QRM. Non ho capito il segnale mio, come ci sto arrivando. Capa, aspetta che ti passa la truglia a vedere come arriva. Capa, Franco, mi senti? Capa. Già ti sento a te, Fra, il problema che c'è questo che è prendi un casino sta facendo e quindi molto lungo non ti copio per quello, se non ci fosse il QRM ti copierei perfettamente bene. Sono proprio bugia, Gitto. Ma chi è questo qua? Sono dentro da fuori. Se l'ho causato QRM, Fra, pescarci! Non pensavo che fosse a pesca. Fra, malito sei! Tanto prova a vedere come arrivi tu di segnale. Attento Franco Cupi, Antonio, da questa parte, cappa. Cappa, è perché c'è questo che sta facendo un casino nero e quindi non riesco molte volte ad ascoltarti. Come mi ascolti in quella zona? Cappa, cappa, fra. Il problema è che c'è questo qua che mi ci interpare in FM. Capito, ma sei in movimento, sei? Attinani. Già, hai capito la cosa? No, perché sta parlando questo. C'è questo capo di stupidana che prende un casino niente a prendere. Adesso li faccio uscire di testa, adesso mi ho dato la birra, paro. Tanti Santiago cavolo, è per quello che non riesco a sentire a Franco. Se non ci fosse stato QRM, l'avrei sentito perfettamente bene, l'avrei sentito. Ma sicuramente lui mi sente una fucilata adesso, cioè, una fucilata a Roma mi sente andata bene. Cosa c'è Gabriele? Ascolta, tu le femme ce l'hai, Franco, ce l'hai le femme. E allora andiamo in FM, Antonio, in FM invece che in AM, che ti sente meglio. Cappa. Arrivo io di segnale, cavagna, va bene, ho Pannolino, Rubiago, non avete idea. Sì. Siete in FM. Sì, che sapevo che fosse Ciccoli perché eravate attaccati, noi ce l'avete in FM. E in Defende. Siamo passati perché c'era la sera, c'era molto guerra, perché in FM abbiamo. Online. Lì, dubito con i guasti normali di arrivare, dubito molto, però mai dire mai. E che dire, adesso ti fa la spesa, e oggi ho guardato quella roba lì, e sì, tu mi dicevi no, che l'ho già visto in quel modo lì, però, cioè, comunque è un'antenna performante perché già almeno un metro e mezzo, e quindi potrebbe essere il clone di quello che ho io. Se uno dice tanto vale averne una uguale, ma io non ne voglio avere due uguali, era per differenziare e tenerla per i futuri anche, capito? Però dall'Italia dubito che me la mandi, no? Ho paura che la devo ordinare da fuori, alla fine fuori mi costa un bella spedizione e non so quanto convenga. Thank you. ammortizzate. Ma immagina tornare dalla Polonia solo l'antenna, a Giumani costa più la spedizione che l'antenna. E poi ho notato una cosa, che la vendono sempre unita alla fase magnetica. Ma io ne ho già due, cosa devo fare? La collezione di fase magnetiche. E allora se è così vi lascio stare, mi prendo quelle che ho. E comunque è vero quello che hai detto, perché se ti ricordi quella volta che c'era Tonino, io ero in campagna, e gli ho chiesto il controllo, allora la mia Midland arrivava a un segnale forte, quella della Telecom, marcata Telecom, che è lunga uguale, messa sulla stessa base, accordatissima, quello che voi avevo, un saltello in meno, quindi è vero, sembrano tutti uguali, fuori, tu dici un pezzo d'acciaio, però magari la differenza la fa la bobina o i pasticci che hanno fatto all'interno della bobina. Raccomandano di fare 110 o 130 massimo, poi dice non è prudente fare una cosa con la magnetica, magari tiene anche di più, però loro, capito, mettono le mani avanti, una avanti e una dietro le mettono di mano. E poi che altro, è vero che le basi magnetiche non sono tutte uguali, adesso ti faccio un confronto per la terra. Allora, base da 15, quella ultra piazza dell'Assilio, con l'antenna ad 1,60. Allora, con la presa a Sinisigari, perché purtroppo sono costretto ad andare di presa a Sinisigari adesso, stazionario oltre i 2, tra 2 e 2 mezzo. Invece con la cavo dietro, la batteria era diretta, va bene. Allora, prendo l'antenna, la metto sulla base da 12, quella che ha il famoso foglio di pseudo alluminio certo, dell'Assilio, però fatta bene. Stazionario 1 sta 1, per dire. Quindi anche le basi non sono tutte uguali. Però stranamente qualche volta si fa mi cambia proprio la lavoratura per l'antenna. Quindi peccato che quella base dell'Assilio da 15, quella sua piazza, sia uscita in produzione, che purtroppo non so, insomma, hanno usato parzialmente il caso col chiaro. Era finito dove c'era lo sviluppo della portiera, dove c'è la cerniera, no? È stata chiusa la portiera e ha parzialmente rovinato il dielettrico, così si chiama, sì, quello che isola la causa centrale. Non è in corso né niente, però vedi, il cavo già è parzialmente, lo considero molto ordinato, cioè non è venuto per come prima. Comunque per l'Assilio va bene, e ha questo famoso foglio di alluminio o quasi, che non è nemmeno alluminio, non ho capito che materiale sia, sembra mylar, una cosa del genere. Sì, già fatto, ma c'ho l'agglomerante, no, stiamo, vabbè, quello lì. Ah, tu mi dicevi, fermo l'esigente, no, io ho usato l'autoagglomerante. Però non era tagliato il cavo, era solo moderatamente schiacciato, però non nella gonna non è arisentito, era bello a tenuta d'acqua. Poi vabbè, per quanto si usa già, lo sai, però la volta che magari lo porto, voglio che funzioni, non è che ogni volta devo ricontrollare tutto, e che palle, guarda. Non è che si è andato a fare un'altra cosa. crescita, sembra acqua. E quindi vabbè, eppure comunque mi chiedevo se quell'antenna Telecom appunto che era inferiore a parità di base magnetica, no? Era inferiore di rete, un Santiago in meno, guarda che un bene. E messa sulla parte diversa rendeva al pari dell'altra, quella è una prova che fare in futuro. Poi te l'ho detto che non merce la pena, vabbè. Yeah. Ma ti fai un giardino da mangiare là? E allora, alle 10:30 ci esco. E mangi di là? Sì, ja. Sì, che andiamo. Poi brucia la giamme. La Germania con lui, capiglia di che ci militare, così. Infatti i quadrettini, invece l'olio, l'olio santo, io lo chiamo. Clube Varone. Ah, non è biato. Sembra che c'è quello quando le mani, se ne sei cucinato. Ma col peperoncino a me è troppo grosso, no. Non mi fa bene, capito? Dopo mi bruciava la canna. Tutti gli emorroidi? Non è che sono gli emorroidi, ma non ci vado molto d'accordo. Gabriele, non tu cannuta. Guarda, la freccia è salita, vede. Tu chissà cosa pensa che sia. Adesso vogliono scoprire tutto. Cavali, manca la roba, che se no ti la fanno in terra. Ma mi sono lo devi toccare già. Non toccare che è caldo, non toccarlo. Ehi, tu mi sapete che dirlo, tu dico che magari non capta. No, oh, a chi vuole che sta freccia attende? Vedi, tu contento, come? Guarda le frecce che si muovono. A quanti, a dov'è? Aspetta un secondo. KK, vai. Antonio, non mi può essere uscito, che c'è una bomba. Non ho capito già. Con che apparecchio sei uscito, ho detto che c'è una bomba. Con 140 sto uscendo. E che microfono? L'MB più 5. Attimo che ci vede. Esce bene, veramente. Bene, appena ho detto cosa vuoi che dica io. E cioè, veramente bene, perché guarda che con l'altro mi piace, ma con questo qua è chiaro, cioè, forse è chiaro. Non lo so. Hai cambiato la capsula? No, assolutamente no, originale. Sento preoccupare di lui. Come ti arrivo io, Antonio, da quelle parti? 9.20 sei qua, la via 5. Sì, andavo. E io, Antonio? Prova un po' tu. 9.10. Sì, ma più o meno lo stesso. Più o meno lo stesso, Antonio. Vabbè, io ho qualche parte adesso, non lo nego. Ah, sei attaccata, no, io sono fermato. Non nego che c'ho qualche parte, ma posso anche vedere, è normale. Vediamo un po' che lui ha lunga distanza. Quando in quattro parti normali, quanto ne hai tu già? Io adesso c'ho 5 parti. Ora c'ho 4 parti normali. Come è, Antonio? Aspetta, che cazzo c'è un casino? Aspetta, 2 minuti. Sì, ok, va bene. Adesso c'è un cazzo, guarda come c'è. Pensa che io non saturo. Saturo? Un pochino. Vabbè, forse che io sia vicino ti prendo troppo forte. Ma non so come si sente cosa. Adesso va passato, guarda. Sì, Giorgio, va bene. Guarda. Poi bisogna vedere adesso com'è. Quando si libererà proprio un attimo a 4 watt proprio. Sì. Gabriele, non si tocca quella roba. Non credo che proprio. Non voglio. Scappa. Uia. Non toccare un monopolone. Tocca a quello, tocca a quello, va. Scappa, una scena. E ma quando non ho la voce, prima che c'avevo. Non sa manco dove tu mi rimani, ecco. Quindi non devi toccare nulla. Ma vedrai che è male. Ma l'amplificatore da qua non te lo fa toccare, che è pericoloso. Manco male da io, manco. Guarda un secondo, ma. Adesso è andata così, più là vediamo se trovo qualche lua, ma infatti faccio il secondo, adesso me ne sto crescendo uno, poi vediamo. Cosa? Per adesso mi sto crescendo a Gabriele, poi vediamo. Beh, è l'essenziale, quello più importante. Ma, un cane. E il cane che ci sono le pelle del calore adesso, lui le sette, capito? Perché lui può fare qualcosa, poverino. E l'unica cosa è o che non cassi, oppure devi fare a coppiare. Ieri stavo facendo la pastoretta del suo figlio. Ah, ma con esce un incrocio. No, ma non ho staccato, c'era il padrone, ma cioè non lascia libero il padrone. Ogni volta aveva il numero là. L'altro giorno no. Stavo passeggiando nella Iola, qui in giro c'era un tipo di trattaglia, subito l'ho tolto la museruola, non si sa mai che si vede, se no si fa poco di svegliere. Invece era una figlia, si è messa a giocare con il paese, giocava come un cagnolino. Sta tutto mano, non tocca nulla, no, capo! Prendi la mazza, Gabriele, prendi la mazza! Ah, non è tutto di curare nei combini. mattina. È normale, Andrew, è normale, ancora non è niente, ancora è piccolo. Tu non mi faccia lì il rabbio, non fa parlo di mandare il traino, no? Ma mi raccudente il pulsante, mi raccudente. Ma lo sai perché? Perché c'è la vostra palmobile. Trappa. Quella scritta, vedi? Già mi sei sciolta sopra un coso. Trappa, che ne sono? Sì. Cosa? Le 18:05. Sì, tra un po' quando andrò a prendermi la pizza, tra un po', va. Non è caro di cucinare. Trappa. Vabbè, ben anche pizzata, vediamo se a volte il vostro pizzantaglio faccio. No, io stasera sono il vigno francese. No, santo che sta... Non toccare il rosmetro, non darmi a colpi. Mamma mia, tira qua, non lì che si rompe. Che vuole la torsione. Non cazzo mi faccio il brutto. Tu metti non un diretto, non c'è il diretto per farlo di con i giochi lei, così almeno sa buono. Mica ci crepa la valvola, non tocca nulla. Cosa vuoi che ti dica? Su domani vengono, c'è il letto lì. No! Ho detto di no! Non è possibile, va. Noi ci avevamo una bomba sempre dove ci mettono i giochi dentro, loro giocavano seduti, giocavano con i tuoi passi, e stavano tutto il giorno trattando. Ora, allora per un momento trattare un coso, vieni, vieni con papà, vieni. Ma a colpi da tutto le notte. Mamma mia, ragazzi. Lagalo qua, tu, lagalo qua. Io lagalo qua che mi faccio a tutto le notte. Stava più vicino a Sanremo, tipo forfogato. Oh, signore. Guarda che ne ha già entrata. Cosa vuoi fare? Giocare al nome? Giocare al nome? Ti dà colpi, boom, boom, boom, boom, boom. Ho fatto una collezione. Guarda, li tocca a chi, cazzo, se no ti scegli nel giumare che tocca a chi. Sto facendo una collezione dei passi. Dei passi, non ho fatto i concerti. Non l'avrei vista tu. Qua siamo senza acqua. Voi l'acqua ce l'avete, sì. E che prendi nel cibo? Senza acqua, torna per terra. E io, via Milano, niente, non c'è una goccia d'acqua io a casa. Ti capito? Quindi, aiutati tu. Senza acqua. Stasera pisciamo con la birra. Mi compro le bottiglie dell'acqua, della birra e piscio. Che mi faccio la doccia con l'acqua a vite. E ti sciucchi ogni volta, ti sciucchi. Che cosa? Ma c'è l'autoclave ancora? Quando? No, manca tutto il palazzo, non hai capito, l'autoclave c'è, ce ne sono tre gli autoclavi. Il coso è questa, ma te l'avevi fatta l'acqua marrone, ma marrone scuro. Hai capito? Verso la luna, adesso è mancata il nuovo l'acqua. Quindi stavo facendo dei lavori e evidentemente chissà cosa cazzo stanno combinando e ci va in mezzo alla merda, ma fa il culo cazzo qua. Adesso quando alle 6:30 esco da Giovanni, vado con lo spin, piglio una cassa d'acqua per bere, se no cazzo stavolta voglio di sette, gli te lo dico io. E ce la faccio cazzo a crepare di cosa. Sono a 4 e basta, come ti arrivo? Prova. 1, 2, 3, prova. 9:15. Sono 4 e basta certificati, Sì, sì, questo lo so, non ti preoccupare. Pesce bene. Ma se posso anche dimostrarlo, vado su e via. 9:15 normale. Ok. Va bene a voi, ci mancherebbe. Ora sono tornato alle origini. Sì, d'accordo. La pagata. Se fanno i problemi del ferito. Ah, sta giocando. Oh, yeah. Vabbè. Adesso me ne faccio ancora X perché sono le 6. Spero che chiami Giovanna, stamattina ho preso il pesce, deve salire 4,70 e Pisa lì altrettanto, da raccorso. Quello che c'è il 4 novembre, quindi con i negozi. Adesso dopo vado a pigliarmi una cassa di birra per Pasqua. L'inchiusa, poi sono a posto. È risparmiato. Ciao. Va, io devo fare il bianco, devo fare. Andato da me. Va, ma continua lì. Ok. Va, dovevo lasciare, vedremo. Ci andiamo un po' più tardi se coincide. Vabbè, non c'è problema, no. Lasciamo dopo, dai. Non ti preoccupare, tanto io ho fatto come uscire con Giovanna, quindi. Fammi la spesa. Passo per Mariupoli, dallo spin, faccio un giro e dopodiché passo ai cinesi, che mi serve l'alimentatore, e faccio tutto un viaggio. Sentiamo stanotte, per salire il 3,9 al limite. Beh, briciola! Billy, su che andiamo! Beh, briciola! Andiamo! Si vede quando passi per andare sulla 3 e poco a Torres. Perché ti ha spedito lì e noi siamo lì davanti. Io una volta sono andato per vedere un pezzo di piccato, vedere che la gente non ce l'ha più da più, e dove è cavolo si è trasferito lì. Prima era a Porto Torres, poi si è trasferito lì a Porto Torres, e poi adesso si è trasferito di nuovo. No, lei qua concorrerà, cazzo bello grosso come cosa, come capannone, bello anno, cazzo sempre bene i denti. Vedi di tutto, vedi anche attrezzatura di calcoli, con tutto vedi, no? Martiglie, di tutto, ora arrivo, cammi, mani, articolati, uia, roba di ferro. Ci lavoravamo in comune. E magari lo conosco pure, ci sono passato l'altro giorno, se ci aveva i palasbuzzi dove c'è il passaruota. E mi ha detto, no, se arriva qualche cosa di Toyota ti avviso. Sì, la porta l'avevo venduta prima dell'agosto, in agosto l'avevo venduta, sì. Che modello c'è della Toyota? È piccolina, ma io ho già una Yaris, Toyota Yaris, 5 porte, però a me mi bacca mazza, un po' più canto mi ha regalato la maglia. Ma che vanno bene con le macchine, durano una No, il cazzo è fatto fuori strada, troppo male, poi il cazzo troppi soldi di assicurazione, bullo. No, è piccolino, 1000 cilindrate. Va benissimo. Ce l'ho già un anno. Ce l'ho già quasi un anno. Io volevo cambiare senza le ruote, ce l'ho già 5 anni. Ma hanno fatto un bel consumo, quelle della continenza sono buone. 5 anni ce l'ho ancora, non sono consumate bene, ma le cambio perché adesso le ruote quando c'hanno più di anni non ce la fidarsi poco. Lo so, no, già sono buono, sì, le Continental sono buono come gomma, lo so, ce l'avevo anche io lì nell'appunto, l'avevo preso nuove, tutte e quattro, tanto ho pagato 300 euro, 300, 350 euro solo di gomma, tutte e quattro. Ma c'è una sorso che le viene da 70 euro, capito? Quelle gomme cinesi, giapponesi, e io ho pagato la gomma, ho fatto il conto 65-70 euro la gomma, lì siamo. Yeah, ma io non gioco come piccolo, io gioco come là, le gomme mie sono 225, 225, 55, 17, che cerchi da 17. Praticamente XL, con i buchi. Le tue sì, quelle che portavo io erano 15 di cerchio. Anch'io quando avevo l'appunto, vabbè prima le mettevo le cose da 15, poi ho messo i cerchi là, c'erano 16 cerchi belli massicci della moda. No, queste che della tagliata sono piccole, quelle che ho adesso, non le sono originali. Io per quello che la uso io, per andare a lavorare, a casa, lavoro a casa. No, non sono uno che viaggia, e cazzo a me mi interessa sempre andare a lavorare. Poi adesso se arriva il bel tempo posso andare anche in moto. La moto è sempre assicurata e quindi posso andare anche in moto d'estate. Ma tu non sai che la moto che fa l'assicurazione, bloccarla e poi riprenderla. Lo sapete, come l'assicurazione mi durava 2 anni, perché l'inverno non la usavo, era ripristinato l'estate dopo. No, adesso non la puoi bloccare, adesso se c'è una moto anche in garage ferma, tu devi fare l'assicurazione, la nuova legge, che la tolgono a giugno mi sembra, entra in rigore. Se c'hai anche una macchina dentro chiusa in garage, la devi assicurare lo stesso. Se non la tratti con l'assicurazione, e vabbè, è un casino adesso. Però io l'ho fatta annuale. Però la pago di civile. E io l'annuale la moto l'ho fatta, pago 140 euro annuale la moto. La macchina lo stesso, ho fatto annuale, l'assicurazione. E poi te l'ho detto, adesso stanno facendo queste cose qua, anche se c'hai moto in garage, ferme, moto d'epoca, quello che è, le devi assicurare. Perché se non ti, non so, la mola cosa devi pagare se non fa l'assicurazione. E tutto questo è nessuno, non lo so. Siamo in un mondo di merda proprio. Allora, un'amica mia non c'era ricordata di fare l'assicurazione, ma proprio perché non ci pensava a me. Beh, lei ha rubato una multa di 600 euro della polizia stradale e non l'hanno mai fermata, nemmeno che con la testa hanno le telecamere, l'hanno puntata sulla targa e sono risalita al fatto che lei non l'aveva pagata. E l'hanno mandato la multa, solo quando gli è arrivata la multa si è accorta che era scaduta. Cazzo, ben saldo, aspetta un attimo. E ieri c'erano due posti di blocco della stradale, due pattuglie alla rotatoria dove c'era la centrale dell'Arte. E adesso iniziano, anche lì sulla strada per la Budivulti, va per la Budivulti, verso l'Italia. quasi, ma adesso... Sì, alla Brunoni aveva già partito, però ho preso 3 punti alla partenza, era 70, erano a 62 le limite di conto 5 e mi hanno preso 3 punti alla partenza e qui mi hanno messo 180 euro di che avanti. Sega, eccomi. Ti volevo chiedere già, stavo ascoltando, insomma stavo facendo roba qui, stavo ascoltando la storia delle assicurazioni, ma questa menata che è uscita è una bufala vera, che anche se la macchina c'era in coso privato deve essere assicurata lo stesso, ti risulta? Cosa mi stava dicendo? Io non lo sapevo, lo stava dicendo adesso. Stava dicendo che se ce la ferma dentro il garage devi farlo, devi essere una cosa continua, se no che arriva a sovrattassa. Ah, stavo alludendo a quello proprio, No, perché io posso capire se tu lo lasci in tipo parti comuni condominiali come da voi, no? Quindi uno spazio condiviso dove, che ne so, la macchina, che ne so, si può mollare il freno a mano, vabbè che lì in piano. Posso capire, ma che il colmo che uno lo lasci in un garage suo, di sua esclusiva proprietà, magari chiuso, cioè chi deve risarcire? E allora è veramente proprio fatto per mungere i sudditi. E allora non è fatto tutto con quello scopo, per fare soldi, sempre quella è la prassi, adesso è quella la norma. Sì, ma sta andando a peggiorare tutto, la sanità pure. Emilio, lo dicevo ieri a Natalino, glielo avevo raccontato, che praticamente prima l'endocrinologo mi prenotava lui la visita, la risonanza magnetica, tempo 2 settimane, 3, la facevo e non pagavo nulla. Adesso non è cambiato, e dice non si può più, credo che me la debba pagare di tasca mia. Però le tasse rimangono uguali, capito, per la sanità. Però la sanità ormai non ti offre quasi più nulla. E come diceva giustamente anche Natalino ieri e io, secondo me puntano al modello americano, dove ti devi fare l'assicurazione che copre le spese, chi può farsi l'assicurazione, chi è povero non può nemmeno farcela, però anche l'assicurazione ti copre fino a una certa somma. Se fai operazioni importanti e costose, l'assicurazione più di tanto non ti copre e quindi sei comunque costretto a sborsare di tasca per operazioni importanti. Sempre chi ha soldi, se no chi non ha soldi non aggiunge di tasca, non si paga assicurazione e muore nella povertà. Sì, sì, è così, io sono andato a fare le analisi, cioè io praticamente non devo pagare nulla, le analisi non le pago. Eppure l'ho dovuto pagare perché questo laboratorio ha detto che a lui non lo stavano pagando e che se quando pagavano a loro, loro lo potevano anticipare e quindi dovevi darmi la domanda, capito? Che pasticcio, però uno le tasse le paga per cosa? Per la sanità pubblica, per le strade che sono sempre in pessime condizioni, capito? Ti tolgono cose, però tu continui a pagare le stesse tasse, magari anche di più. E vabbè, e molti se ne vanno in questi cosi dalla Spagna, in queste isole, o Baleari o come si chiamano, quelle altre anche, chi se ne va in Portogallo. Però non credo che ci sia tutto questo paradiso anche lì, stanno cambiando le cose in peggio. E queste sono le parole che ha usato l'infermiera di endocrinologia, dice sono cambiate tante cose, purtroppo, dice in peggio, parola sua e di chi ci lavora. Si sa, se uno già praticamente l'esenzione, perché deve pagare? Loro dice sì, ma io praticamente sono convenzionato con l'SR, l'SR non mi sta pagando, quindi io faccio pagare gli esami, perché devo pagare il personale, devo pagare tutti i reagenti che devo comprare, eccetera, eccetera. È un casino, infatti se sì, comincia tu, sei esente magari poi comincia, ma quello non è coperto, non è esente, quell'altro farmaco non è esente, allora cominciano a togliere tutto dall'esenzione e uno si deve pagare di tasca. Va bene, continuiamo. Comunque dopo il Covid è tutto questo peggioramento, ne ho già. Prima del Covid eri quasi servito e riferito, adesso o mi riconosce mai o cosa, insomma un sacco di difficoltà per fare qualsiasi cosa. Secondo me ha peggiorato la situazione, non so come sia per il settore di diabete e dintorni. No, no, quello lì grazie a Dio ancora. Dovessi pagare solo le strisce, costano, mi pare faccio 8 euro, 50 strisce. Cioè, sono quelle pastiglie, tutte le altre cose, l'insulina, cosa lo sanno di soldi. Io dico la verità, non c'è la pari a capire. Ah, ma queste cose te le devi pagare di tasca? No, sto dicendo, adesso me le dà, se dovessi pagare, ci vogliono un po' di soldi, almeno 500 euro al mese. Cavolo, e così è la storia mia, io faccio la terapia ormonale sostitutiva, no? Tiroide, surrenali, testosterone, un po' tutto, no? Perché come c'è stato uno scompenso parte tutto. Se dovessero da un giorno all'altro dire, signor caro signor dall'Italia, si deve pagare la roba, e lì è, quella è roba costosa, è roba, ma non ci voglio pensare nemmeno. Sì, ma anche in Inghilterra è così, ma devi farci l'assicurazione. Però c'è una cosa, se tu vai al pronto soccorso, hanno un massimo mezz'ora di tempo per vederti, perché poi ti puoi denunciare, capito? Aspetta, com'è? Ripeti. Hanno mezz'ora di tempo al pronto soccorso per vedere le persone. Mezz'ora di tempo, non ti puoi aspettare tutta la mattina. Questo lo so di sicuro perché ci lavora la figlia di un'amica mia, lì a Londra, è un'infermiera professionale, lavora in ospedale. Sai quante denunce prendono i dottori? Vabbè. Che possiamo fare? Niente. Ci siamo trovati con questa amica mia, proprio pronto soccorso, e c'era la figlia. E ha detto, qua è uno schifo. Lì, massimo mezz'ora ti devono servire, perché se no prendono di luce a te andare. Lì ogni tanto c'è qualche aggressione al pronto soccorso. Magari gente esasperata che aspetta 12 ore, cioè, che loro vanno sempre a piangere dicendo che li hanno aggrediti, però... Va bene, lasciamo stare, dai, non ne voglio parlare. Allora, lì secondo me c'è sì mancanza di personale, ma i dottori secondo me non fanno apposta a rallentare le cose, perché per far vedere che c'è questa mancanza di personale, di modo che lo ripristino, secondo me così, perché anche loro se la prendono con calma. Sì, io lì un po' volevo rigiare la dissertazione, siete busardi, non sembra gente sotto pressione, capito? Gente che sta bella tranquilla, ogni tanto arriva qualcuno e c'è da aspettare, poi aspetti un'ora, due ore, quattro ore, otto ore. C'è gente che è andata dalla mattina e è uscita a notte fonda da lì, per cavolate magari, non gli hanno fatto manco nulla.